riesce a ripararlo, però può essere qualche componente impedica. Che dice l'oscillatore, ci avrà sicuramente un oscillatore al quarto, e se va coso, magari c'è qualche parte del circuito che non sta dando con la frequenza campione, poi passa un altro circuito e si sposta, non c'è stabilità. Loro su questi apparecchi mettono un quarto per stabilizzare la frequenza campione, diciamo, e da lì poi ci sono tutti gli strati, per vedere se c'è qualche componente, perché ci sono i moltiplicatori, ci sarà qualche componente magari in perdita, bisogna avere qualche condensatore, perché quelli non sono come quelli moderni di adesso, anche se è un ottimo ricevitore, c'ha delle belle cose dentro, però i condensatori, quelli di una volta, non sono neanche paragonabili a quelli di adesso. Adesso magari per avere le stesse capacità, che quelle erano grandi quanto un dito, adesso c'è una punta di spillo, per dirti come è salita la tecnologia. Ho capito. Allora, stavo attribuendo magari le valvole esaurite, che vanno magari sostituite per avere una funzionalità migliore, per ottenere, diciamo, un allineamento giusto, provare che sia quello. Comunque mi troverò anche quello stesso. Può essere anche deriva termica, cambiamento di temperatura. Allora, non lo so, perché questi, diciamo, non intendo, ce li ho sempre avuti in mente come passione per possederli, ma poi alla fine il funzionamento non è che lo conosco molto bene. Adesso l'ho valuto un po' nel tempo, vedo un pochettino se anche sostituendo tutte le valvole mi rifà il problema, e quindi sarà, come dici tu, qualcos'altro. Ma perché hai sostituito le valvole? Sì. No, non l'ho ancora cambiato, ho visto che comunque scaldandosi mette a funzionare bene e sembra che funzioni, però chissà, col tempo sicuramente qualcuno è andata. Magari qualcuno può essere in perdita, magari non sta amplificando, perché lì ci sono diversi stadi, c'è il pilota, per amplificatrice, e poi ce ne sono 5 di valvole su quell'apparato lì, e bisogna vedere che se sono tutte efficienti. Quello può influire anche la valvola, perché la valvola è l'ultimo stadio di amplificazione. Infatti, nel mio caso questa situazione c'è un problema principalmente di valvole, perché tende, quando scalda bene inizia a funzionare bene, all'inizio ci mette un po', quindi trovo che c'è qualche valvola che magari non sta funzionando bene. Una volta che ho cambiato tutto mi rendo conto poi sarà quello il problema o bisogna andare a cercare altro. Poi c'è anche il condensatore variabile, lì c'è con la radio, perché sono di vecchia scuola, lì bisogna avere tante cose, però ci vuole un tecnico, deve fare tutte le misure, ci sono sotto i valori, l'hai visto nel fondo della radio, ci sono indicati i valori di tensione eccetera per fare le prove in laboratorio, diciamo ci hanno di buono queste radio, quando ti danno il manuale d'uso, ci sono anche lo schema elettrico con tutte le tensioni, diciamo un bravo tecnico, uno tipo Fabrizio, gente così, ne cava a piedi subito, anche se bisogna stare attenti perché c'è alta tensione, dove ci sono valvole c'è sempre alta tensione e bisogna stare molto ma molto attenti che ti bruci un pochettino, però non è complicatissimo rispetto a, per dire, se riaprire un 440 rispetto a quello lì, sicuramente è molto ma molto più facile ripararlo. Il problema possono essere la reperibilità varie delle valvole, ma penso che siano abbastanza comuni, perché non è roba di cosa, anteguerra, dai. No, ma infatti non credo che sia difficile reperirle. Poi adesso vediamo, cerchiamo di. Poi il manuale è abbastanza dettagliato, tutto semplice, purtroppo come dicevi tu ci sono tutti i parametri per poterlo riallineare, verificare un pochettino i vari stadi. Adesso vediamo un pochettino, adesso ti so produrre, man mano che lo uso cercherò di conoscerlo meglio e inizio a capire un po' come deve essere usato. Va bene, avanti Gianni. E allora sì, questo qui che cos'è, l'ultimo acquisto che hai fatto? Oh, questo è quello, il ricevitore stai dicendo? Sì, il ricevitore. Sì, l'abbiamo preso l'altro giorno e così la scatola chiusa. E quindi più che altro mi sono puntato l'estetica, che mi piaceva molto, poi ho detto vediamo un po' se siamo fortunati che almeno riusciamo a farlo funzionare, va bene, altrimenti resta così a modo museo. No, già funziona bene quell'apparato, te lo sto dicendo, è un grande ricevitore, lo sai quanto è richiesto sul mercato con la radio, è molto ma molto sensibile. Io con quello che ho preso io fortunatamente ero molto titubante, ho detto ma cosa me ne butto, cosa me ne faccio, l'ho portato a perché mi ha detto guarda se riesce a venderlo, ho detto ma chi lo vuole, ma cosa se ne fa, l'ho portato a casa, l'ho acceso e mi sono innamorato subito, ferma, questo non si muove da qua. Ho fatto le comparazioni con il 44, che quello c'ha la frequenza digitale delle stazioni, e ti posso dire quella scala graduata è molto precisa, sono rimasto a bocca aperta considerando che è una scala graduata, per cui possono esserci degli errori di precisione, invece posso dire è molto molto precisa. Sì, no, ma ho visto, non è male, dai, per l'epoca doveva essere qualcosa di professionale, molto curato. Adesso stavo cercando un trasmettitore da abbinare, ma niente, non riusciamo a trovarlo. Vengono anche il trasmettitore e il coso, l'altoparlante esterno, però che tu non c'ha l'altoparlante, che strana questa storia, questo lo so, suona, quanto è forte quando dopo che ha scaldato lo sollevi per prendere una stazione forte, gli abbassi un pochettino l'amplificatore d'antenna perché sono distorsi, devi fare le regole, diciamo l'unica cosa, lo sai così, un po' il macchinoso avere la massima resa acustica, perché se tu lo usi così andando uno dietro l'altro ci sono stazioni forti, più deboli, devi accordare eccetera, se tu te lo metti al massimo il preamplificatore d'antenna distorce un bene, allora devi, come ha accettato la stazione, per dire che è forte devi diminuire molto la preamplificazione d'antenna e cosa, l'accordatore ti fa la regolazione, però suona molto molto forte, molto chiara la stazione che ascolta. Sì, ma mi ha meravigliato il fatto che abbia comunque gli attacchi per altoparlante esterno, quindi è probabile che magari un altoparlante interno o lo hanno messo successivamente o altrimenti era un optional, perché in un altro annuncio ne ho trovato uno con un altoparlante esterno applicato all'attacco delle cuffie frontale. Allora c'è l'altoparlante, te lo dico con certezza che è nato con l'altoparlante perché c'è la figura e c'è il coso, l'ho spaccato e c'è scritto il tipo di altoparlante che monta e quanto assorbe con l'altoparlante, c'è scritto consumo, il coso a manetta per dire in posizione stand by, diciamo volume a zero, non so quanti watt consuma, volume massimo altro, per cui l'altoparlante c'è sicuro, qua non l'hanno messo. C'è anche la possibilità di mettere un altoparlante esterno come tutti gli apparecchi, anche i baracchini hanno la possibilità, la maggior parte dei baracchini hanno un attacco per attaccare un altoparlante esterno. Ho capito, vabbè, vediamo un po', non credo che l'abbiano manomesso così, poi vediamo un po', mi devo guardare bene gli schemi e come esce dalla casa per capire un pochettino fin dove è originale, fin dove lo hanno modificato. Va bene, avanti Gianni ancora. Che ricevitore è? Trio? Un Trio 9R mi pare che sia la sigla, adesso non mi ricordo bene, ce l'ho qua davanti ma non lo ricordo. Trio modello 9R-59DS. Aspettiamo, c'è un'officina, Sergio, se passi domani ti do le fotocopie di quello schema, c'è tutto, non sono tante pagine, saranno in tutto una diecina, sono doppia pagina, dai, fai che siano 20 in tutto, doppia facciata. Sì, dopo, allora, e poi ho detto a Riccardino, se porta il ricevitore 9006, io lo voglio provare qua in radio con le antenne mie, vediamo se effettivamente sta funzionando bene, perché se no Fabrizio ha detto poi gli do uno sguardo io. Ho capito, va bene, sì. Perché comunque questo lo Yaesu, chi lo teneva, si vede che lo teneva proprio bene, non l'ha mai nemmeno messo, l'ha soltanto usato come ricevitore, me l'aveva anche garantito, così è stato, che non aveva neanche un graffio, me l'ha mandato con tutto, la scatola, tutto, la staffa, c'ha tutte le dotazioni di fabbrica. Va bene, comunque va, facciamo così, avanti Gianni. Eia. Non so, in mezzo c'è sempre quello che lo tratta bene, ma ci sono anche gente che manda mondezza. A me una volta mi hanno mandato un apparato che era appiccio il cielo, ce l'ho buttato via, mi ho preso il microfono, ce l'ho buttato, faceva, era un aereo in quinto, ma doveva essere preso da sottoterra, secondo me. Era tutto quanto sporco, tutto, faceva schifo solo a vedere. E poi normalmente gli apparati passano la maggior parte del tempo su una scrivania, su un tavolo, quindi di solito se uno non è uno di quelli fissati che gli piace aprirli, smontarli, modificarli, di solito dovrebbe essere in buone condizioni, però poi capita, se io lo metto in conto, capita che magari trovi l'apparato che anche esteticamente sembra a posto, poi invece dentro è manomesso o viceversa. magari se questo si sia graffiato esternamente, ma che sia integro all'interno, perché poi quella è la parte più importante e più complicata da sistemare. Avanti Roberto. Diciamo, normalmente i ricevitori non vengono mai manomessi, a meno che non hanno avuto problemi. Trasmettitori purtroppo quello si vengono sempre toccati, avere qualche watt in più, avere un pochettino di modulazione, ma ricevitori raramente. Però col tempo il ricevitore può perdere di prestazione, perché ci sono dei componenti, anche di lì che, come si chiama, perdono, soprattutto componenti tipo condensatore e resistenza, no, però i condensatori piano piano, per cui diventano un pochettino sordi, come il 7000 che avevo io, quello era modificato, e lo si utilizzavano in un aeroporto inglese, 5, ne ha preso questo qua, questo negozio, questo laboratorio di, non mi ricordo di dove era, Bocca Zeta, e aveva tirato fuori 5 di quelli lì, erano tutti modificati con dissipatori maggiorati, per utilizzo 24 ore su 24, erano delle stazioni degli aeroporti militari li utilizzavano. Però dopo qualche anno anche quello è andato a farsi benedire, iniziavano i segnali sempre più bassi, l'ho spedito a Bianconi, mi ha detto guarda è così, il ricevitore è così, doveva fare i lavori, mi ha detto guarda è un po' complicato perché bisogna trovare un'altra scheda, serve aggiustare questo, è complicato, gli ho detto guarda, se ne senti qualcuno, dopo un paio di giorni mi ha anche telefonato, guarda mi è entrato uno di un cliente che ha comprato un altro ricevitore, ce l'ho in conto vendita, lo vuoi, nuovo in scatola, nuovo fiammante, e quanto ne vuole, ma me lo ritiri il mio, ha detto sì, mi ha dato una fesseria, ho detto dai, e me l'ha mandato, tutto ricontrollato, riallineato, ma era già nuovo, tutto a posto, ha detto prendilo al volo che non fare, e me lo sono fatto giù. Sì, ma vabbè, il problema è anche che se non è un'esperienza su questi apparati, chi arriva, parlo di quelli magari usati, si è convinto che sta funzionando bene, invece ci sono delle cose che non vanno bene, e quindi non te ne rendi conto se non è un'esperienza proprio di apparati già avuti e che sai che quel tipo di apparato lavora in quel modo, altrimenti tu sei convinto che sia a posto, invece non lo è. Sì, sì, quello è vero. Grazie a Dio il ricevitore qualcuno già l'ha avuto e ce l'ho ancora, per cui qualcosa, infatti ho detto la prova, io con 9006, io lo voglio fare qua in stazione da me, voglio far togliermi dei dubbi, perché ho visto che non avevi quelle, come si chiama, quelle intermodulazioni, quei segnali fantasma si chiamano, che non mi sono piaciuti, bisogna vedere se sono generati dall'antenna oppure se c'è qualcosa sul ricevitore. E poi volevo, ho notato che qualche segnale che lo avreste dovuto ricevere non riuscivi a riceverlo, segnali non molto lontani, e poi c'erano dei sdoppiamenti di frequenza, e a capire se era l'antenna che stava risuonando male, ti dava dei battimenti, ti creava delle cose così, per cui lo provo con l'antenna mia e se me lo porti domani, poi domani sera, domani notte come esco lo attacco e ti dico se va più che bene come ricezione. Ok, sì, così poi mi saprei dire, dai. Niente, vediamo un po', ogni tanto ce la sentiamo con questa roba usata e te lo utilizza. Io sono sempre un po' azzardato nelle cose, quindi allora, non è che sta impegnando chissà che cosa, quali capitali, però fa fastidio più che altro quando prende una fregatura, perché non piace darle e non piace neanche riceverle. Avanti Gatti. La gente onesta dice così, ma ci sono quelli che sono disonesti. Per dire, a me una volta mi ha telefonato Salvatore Maestrali, oh già, siccome stavamo cercando il Galaxy Saturn Echo, guarda che c'è uno che sta vendendo due Galaxy Saturn Echo avanti di magazzino, sono ancora in scatola, e ha detto che ci regala anche un microfono MV+5. E ho detto vabbè, andiamo sul sito, siamo andati a vedere, tutto fatto bene, l'autotrasportatore, STC, seller, niente, l'abbiamo contattato, lui ci ha detto sì, c'ho questi due apparecchi che praticamente ce li ho come avanzo di magazzino, se vi interessa, ma funzionano, sì, li ho provati, tranquilli che funzionano. Mandateci i soldi con Western Union, infatti con Western Union non fate mai pagamenti, mi raccomando, se no vi fregano, perché non si può trovare la tracciabilità. Beh, fatto sta che Salvatore Maestrale ha mandato la moglie, ha fatto il versamento, telefoniamo per dirle che avevamo fatto il versamento e non rispondeva nessuno, telefono, questi apparecchi non sono mai arrivati, siamo andati dalla polizia postale, ci ha detto che è una grossa organizzazione che fa un sacco di soldi al giorno truffando la gente che fa vita da nababbo, ristoranti prima categoria, alberghi di prima categoria, macchine grosse, cosa fanno? Ritirano i soldi, per dire, vanno in Inghilterra, c'hanno queste carte che usano solo per ricevere la telefonata, poi la buttano via, capito? Quindi non li rintracci mai, come ritirano i soldi scappano e vanno in un'altra città, quindi non li beccherai mai, dice, ci sarà un momento che poi magari potremmo anche beccarli, e loro lo sanno che poi prima o poi i ferri li prendono. Allora intanto sino a quel momento li fanno vita da nababbi, 400 euro ci hanno fregato Sergio. Lo so, questa è una cosa che mi è capitata personalmente, quindi conosco il meccanismo, perché mi sono salvato, perché per esperienza nessuno, non esiste che uno compra un cavallo senza averlo visto, e quindi mi sono ritrovato a dover vendere un cavallo senza che l'acquirente l'abbia visto, mi manda l'assegno, ma un assegno vero in tutte le sue parti, di 10.000 euro, lo accredita sul conto, io comunque ancora me la puzzavo, e questo che mi incalzava, guarda che domani sto mandando l'autotrasportatore a ritirare il cavallo. Il prezzo pattuito era, mi pare, 8.000 euro, quando viene l'autotrasportatore il resto mi serve per lui, e quindi mandami su Western Union i 2.000 euro che mi avanzano da quell'assegno che ti ho dato. Beh, la banca ha impiegato 15 giorni per capire che l'assegno era rubato o falsificato. Grazie, allora il cavallo non gliene dà? No, perché nessuno compra un cavallo senza averlo visto, il cavallo va visto dal vero, perché il cavallo presenta a volte difetti sia morfologicamente che anche di salute, quindi chi è lo scemo che va a comprare un cavallo spendendo un po' di soldi senza neanche averlo visto, non esiste, no? E quindi questa mi sono puzzato, solo quando c'è di mezzo Western Union i soldi vanno via in un attimo e non tornano più. Infatti, io ho salvato un amico che mi ha detto, già, questo amico mio di Usti, già, ho trovato una Canon 60D come la tua, sto per comprarla, costava 1.000 passa euro, lui l'aveva trovato a 200 euro, gli ho detto, ascolta, ma dove la stai comprando? Su internet già, e la compro subito, nuova, è nuova di zecca dal negozio, e gli ho detto, con cosa stai pagando? Con Western Union, basta, blocca tutto, non prendere nulla, ma sei sicuro? E tu sì, cazzo, l'amico mio l'ha già comprata. L'amico se l'ha presa uguale, cioè se l'ha presa pagato e se l'ha presa dietro perché non gliel'hanno mandato. No, ma è assurdo, per carità. Comunque, succedono anche queste cose, bisogna stare attenti. L'importante è capire quando ci sono dei meccanismi strani che è meglio tenersi al sicuro. Perché soprattutto questo Western Union, secondo me, è un metodo proprio per far viaggiare i soldi senza nessun tipo di tracciatura, ed è un meccanismo un po' particolare, un po' strano. Tanto è vero che tutti quei extracomunitari che sono qui presenti, i soldi li mandano così non tracciano la quantità e non vengono tassati, è tutto un meccanismo particolare che è un po' complicato, ma che poi a chi fa comodo funziona. Sì, a chi fa comodo, ma a chi non fa comodo. Ma guarda che non siamo stati sprovveduti, Sergio, noi abbiamo controllato il sito, c'era disegnato l'autotrasportatore, era West Seller, aveva tutti quanti i post positivi, è un grande venditore, manda subito la roba, eccetera eccetera, questo e quell'altro, tutto falsificato da loro, capito? Sì, non lo so, ma però c'è anche da capire che c'è la complicità di tante altre persone, chi gli ha permesso di fare un sito così senza aver verificato le credenziali, cioè la cosa è complicata, ma c'è anche la complicità di tante persone che poi alla fine anche loro ci guadagnano, perché un sito paga per la pubblicazione delle immagini eccetera eccetera, quindi ognuno ci guadagna, l'unico che ci perde è quello che ci casca, purtroppo. Avanti Roberto. e bisogna stare molto attenti. Io sono diffidente per natura, ho visto dei clienti, un paio di clienti da me hanno preso, perché io compro spesso in internet, mica adesso sto cercando delle cose, però devono essere cose molto sicure, contrassegno come si chiama, con un diritto di riserva, in modo che te lo riprende le poste dopo che l'hai aperto, ti dovranno eliminare, non ti fanno niente. E quando vedi qualcuno in cerca, a meno che non sia un negozio affidabile, nel senso che c'ha una sede, sa di dove, telefoni, c'è certezze. Io quando ho comprato un apparecchio ho avuto dei dubbi, perché diciamo un po' di razzismo ce l'abbiamo verso i napoletani. Ho tanti amici e anche parenti, tra parentesi, napoletani, ce ne sono meglio di noi, però hanno una cattiva reputazione. A questo qua ho detto, guarda, sinceramente non mi fido di te. Ho detto, cosa vuoi fare? No, ma non ti preoccupare. Allora, siccome c'è un amico di lì a Napoli, ho detto, fammi la cortesia, vai in questo posto, controlla se esiste effettivamente, vieni qua a Napoli, ti pago la cena, io voglio togliere questo. È stato in gambissima, questo qua a me ha fatto parlare la spedizione, la merce è arrivata, stiamo parlando di apparati qua, di questo genere che utilizziamo noi, è arrivato tutto tranquillo, ma lui, vieni qua a Napoli, sei mio ospite, vieni. C'era un amico mio, un finanziere che lavorava lì, ho detto, fammi la cortesia, vai in questa via e controlla se c'è questo. Sì, c'è, ha garantito tutto, ho spedito. Però un cliente mio, quando leggo infatti molte cose, quando ve lo dico, ho visto su internet questa qua, musata completa, e sono sempre le stesse, sono delle fregature allucinanti, ma anche su Facebook lo mettono, marketplace che c'è su Facebook, per dire, ti serve un parafango, un paraurti di un BMW, una qualunque, loro ci scrivono musata completa, tu rirà e bezzo. Questo signore che è di ufficio ha detto, guardi che è un blef, no, non è un blef, ci ho parlato, ho telefonato, stia attento, 500 euro ci ha buttato questo. È quello del concetto del mascolosi, la mette scendi. Vabbè, ma io sono pure un macchietto, io non andrò mai a comprare cose da gente sconosciuta, ma sta scherzando. Ma poi, quando mai non hanno pensato che con la storia del coronavirus non si potevano fare concerti all'aperto con la cacca di persone? Ma è una cosa mai stata presa dal fatto che vedeva la mascolosi, ci sono fatti prendere dalla foga, non ho capito nulla. Lasciamo pregare. Comunque io, tra parentesi, di Western Union è il sistema più veloce per mandare e ricevere soldi da qualunque parte del mondo. Io lo utilizzo abbastanza spesso per amicizia, quando devo fare certe cose, devi mandare i soldi immediatamente, che ce li hai nell'immediato. Non c'è altro sistema, l'unica cosa, non puoi spedire più di 1000 euro, 990 euro massimo, e le commissioni sono abbastanza elevate. Però se io mando i soldi adesso, dopo un minuto ce li hai già. Quello sì. Il meccanismo è incredibile, perché anche avere dei soldi tutti in fretta possibile, però viene utilizzato spesso anche per chi non vuole tracciare uno spostamento di denaro considerevole, che poi cosa fanno? Fanno più versamenti, quindi 1000 euro sì, però tu ne puoi fare tanti dal massimo di 1000 euro, per cui poi fanno, per come dicono, e tanti blog pagano un bel, no? Sì, no, già l'ho fatto, già è capitato anche a me, dovevo portare, c'era una mia amica, doveva portarci dei soldi, non potevamo andare su per portarli da fuori, dall'estero, portarli in Italia, doveva pagare delle tasse universitarie, lì dovevi dare dei soldi, li ha dovuti fare in due tranche da due persone diverse, perché devi aspettare se no il giorno dopo, la settimana per trasferire i soldi, ma già ci sono metodi per trasferire, probabilmente poi ci sono le leggi antimafia. La cosa brutta è che questi soldi te li danno chiunque, vai al tabacchino e ti danno, perché c'hanno queste riunioni, ce n'è con la corso Vico, non so se siete mai andati, cacchio, dove vanno tutti quelli extracomunitari, è pieno di grosso. E infatti quelli li usano proprio normalmente per chiedere soldi a casa, e quindi sanno benissimo che l'unico metodo per non essere tracciati, eccetera, che poi la commissione non è neanche poco, in base al versamento che fai. Allora, in banca, se vai in banca spendi dai 16 ai 25 euro se devi mandare 990 euro, dai 16 ai 25. Figurati, comunque insomma. Va bene, dai, signore, io vi lascio a Ricky qua al comando, io mi ritiro. Ci sentiamo domani comunque, vabbè, ciao Gianni e a risentirci, dai. Ricordati, portami quella roba lì così facciamo le prove. Mi hai mai fatto perché se no devo cercarne uno io. Sì, ricambio. Aspetta. ho parlato io. Hai sentito? Sì. Comunque, se vi siete sovramodulati, siamo in tre e riusciamo a sovramodularci. Infatti ho parlato io sopra di Gianni. No, sto dicendo, Sergio, ricordati anche l'alimentatore oltre che l'apparecchio, se no devo cercarne un altro in mezzo agli imbarazzi. Certo, non ti preoccupare. Vai Gianni. Ehi, vabbè dai, vorrei lasciarmi in casa mia, vai, riprendere in casa mia. Poi riprendo io, va bene. No, stavo ascoltando intanto, comunque non so di cosa parlare, trovate un discorso. Parla dei baracchini, che adesso c'hai il coso, il museo della radio. Il museo Riccardino, vabbè il cognome non lo diciamo, c'è il museo Marconi e tu c'hai il museo Riccardino. Siamo in tre, siamo riusciti a sovrammodularci un'altra volta, vabbè. Roberto, aspetta, parla Roberto, intanto vado in bagno, così almeno c'hai rotta libera. No, stavo rispondendo al Riccardino e poi nello stesso tempo non mi sono accorto che stai parlando tu. Ok, dai, Riccardino, sento un rumorino, cosa hai toccato? Io non ho quasi toccato niente, vediamo cosa posso fare per... Non posso fare niente, non ho toccato niente. Adesso ci sei uscito bene poco fa di tutto. Adesso facciamo una chiamata generale sul canale 10 27 075, avanti chi vuole entrare, se no fate come volete. Che tu hai fatto? Non so che c'è un ricco di porco. Ehi, cacchio, le 11:25 sono, pensavo fosse più presto. Vabbè, non ti puoi neanche trattenere altri 5 minuti che scappi sempre. Cosa hai detto? Non riesco a trattenerti neanche 5 minuti che devi scappare. Però non stai andando bene, Riccardino, ci sente? Ma sei sicuro che non sto andando bene? 1, 2, 3, prova. Non parlare, manda solo portante. Parla, beh. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Vediamo se va. Adesso va bene. O sei tu che non stai tenendo bene i PTT? Ma al centro lo stai schiacciando. Lo sto schiacciando benissimo, al massimo lo sto schiacciando. Cavolo, aspetta, con quanto faccio sto film che faccio un guardo, va bene. Gianni, sì, sì. Mi chiedi a confermare Gianni, sì. Gianni, ma ancora lo sto facendo, oppure no? Mi sto facendo con 7 watt. No, adesso no. Perché? Hai sollevato qualcosa? Cosa sta succedendo? Ma hai sollevato perché si può sollevare la potenza di quella rete del radio? Negativo, non si può sollevare niente. Ah, perché mai sto uscendo con 7 watt? Pensavo che ci avessi alzato. No, niente, perché non lo sapevo, ho messo la scala di luci e l'ho controllato, sono 7 watt modulati. E le stazionarie quanto c'hai? 1.1. E allora già va bene, dai. Sì, sto guardando. 1.1. Lo stai di nuovo facendo quel problema. Boh, ma non è che ti stai appoggiando a qualche cosa, boh, stai muovendo qualcosa che vibra. No, non sto facendo niente, boh, non lo so che cos'è. È un bel forte adesso. È un bel forte. Boh, non lo so. Ma quanto è alimentato quel baracchino? Alimentato con un alimentatore svuotaggi e con quanti... Dillo. 13 e spiccioli. Adesso sono uscito bene, ma poco fa è tutto mitragliato, fa così, un effetto come quando sei sottoalimentato. Ma è la batteria del coso, buona è, del microfono. L'ho cambiata da poco, l'ho comprata cos'è, 2 settimane fa, la batteria. Ma tieni presente che il tunnel, le batterie ne mangia parecchio, mio, un microfono che mangia molto batterie e consuma parecchio, se lo tieni ore e ore acceso, non te ne accorgi, in 3-4 giorni, una settimana, te lo mangi, se parli mattina e sera, vedere se si scarica. Non lo sapevo, boh, perché questo microfono lo uso poco, perché adattato su questa radio la uso poco, la usa più babbo. No, lo sta ancora facendo quel problema. Gianni, ci sei? Buonasera. Mi chiedi a Tonino, ciao Tonino, prova a parlare di tardi. Buongiorno Tonino, ti sei svegliato bene stamattina? Va bene, dimmi come sto uscendo, se sto uscendo a mitraglia oppure bene? Adesso sei riuscito bene, io sono in ascolto a poco fa. C'avevi un tipo di CV doppio. Non lo so che cosa sta succedendo, vabbè. Adesso sta andando bene comunque, Riccardo. Ma non è che tu stai muovendo qualcosa, che qualche contatto dello sfidato del microfono non è infilato bene, l'alimentatore che il cavo dell'alimentazione magari non è stretto bene, Il microfono, sono posizionato su una cosa non stabile, quella che hai visto tu. Di nuovo, l'ha fatto di nuovo. E cosa ci posso fare? Dico, al massimo che posso, finché non mi crepo le dita non potrò mettermi anche portante quando sarò più vecchio. Se non ci fosse Riccardo non bisognerebbe inventarlo. Vero, giustissimo. Io mi sono mangiato un gelato, vabbè. È buono, che gusto te lo prendi, basta che non sia cioccolato. Magno cioccolato. Anziano ma è importante. Venga tanto Gianni, avanti. Ciao Tonino. Ti fa male gelato. Leva minerali, va gelare. C'è una cosa che mi fa gelare e leva minerali. Oh Gianni. Ma te lo ricordi domani il pomeriggio, sì? Sì. Ok, arriviamo e ci mettiamo una cosa. Non è troppo, se no ci diamo l'appuntamento la stasera. Oppure le fai una massa, le fai per domani sera, le dici oggi, non lo so più. Me la facciamo quando stiamo andando, dai, non c'è problema, tanto lui è andato vicino, dai. Sai che questa cosa qua è innamorata un'altra persona ancora? E quale cosa? Io dovevo oggi, stamattina, che sono partito presto. Un amico di Stefano. Tonino, ho comprato un'altra stazione base. Mi puoi dare un consiglio? Come faccio ad uscire dallo shopping compulsivo? Aspetta. Riccardina, insomma, mi prendi in giro, ma sto cercando io le stazioni base e tu me le stai tutte comprando tu. Tu fai una cosa, dopo che Riccardino le compra, le compri a lui. Tu dimmi dove sono, vado io a comprarli. Siete contagiosi, me ne state facendo comprare troppe. E tu dalle a me, me ne vieni a me. Non ti bastano quelle che hai? No, io ne ho poche. Una, due, tre, ne ho solo tre. Io praticamente ne ho una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette stazioni base. Miei truppi. Sei tutto per la chiette, Riccardo, adesso. Boh, non lo so cosa è successo. Tony, se mi dai altre due, tre stazioni base, arrivo, faccio la collezione, se arriviamo a 10. No, Riccardo. Queste sono mie che mi piacciono troppo, me le tengo qua, a costo non male mettere in vetrina, però le ho asciugo. Cappasa. Riccardo. Cosa c'è, Tonino Kawasaki? Salutami a tuo padre. Saluti da babbo anche, ricambia. Grazie. Tu c'hai la televisione accesa, Tonino. Eia, si sente. Tu sì che vale, se c'è la finale. Finale, ma non sono già finiti da 3 mesi quei programmi. Tutto registrato, dai. Ma qualche volta ci è capitato di vederlo, quando c'era qualcuno fuori di testa, più di una volta. Com'è quello, Gingò? Cosa già? Tonino, ho detto, quello è come Gingò nel pantalone. Sei troppo amplificato, devo abbassare a te. Ripeti. Ho detto se merende in gonna o in pantaloni. Sì, cosa fatta? Togli quell'ecoca, ma io non lo so, io non riesco a capirti. Merende in gonna o in pantaloni? Merende c'ha una specie di pantaloni aperto, però la farfalla non si vede. No, avanti, Robè. Allora, Riccardo, non sono solo io che odio il coso, il come si chiama, l'eco. Adesso Gianni sei perfetto, pulito e chiarato, non si compri di nulla, quando parlavi troppo veloce, molte parole non si capiva. Perché forse era troppo alto, vuole regolato. Io non mi sento, quindi non me lo posso regolare, probabilmente come ha spolverato l'ho spostato. Io mi sento con l'eco, scusa. Cosa? Io mi sento con l'eco. Aspetta, mi scappo. Mi sento. Però vedi, so che da fastidio non si sente bene, lo tolgo. Ma il mio non è così, il mio l'eco va bene. Quello lì ripete troppo. Se non dici tu che va bene, se tu hai detto che non ho capito. così non mi capisci. Così sì, perché ecco, non c'è già. Ma se io lo metto appena appena, tipo effetto cattedrale, mi capisci tranquillamente. Guarda, ti dirò, all'inizio la prima volta che sentivo l'eco mi piaceva, adesso manco la metà che non mi piace più. Ehi, vabbè, lo regolo domani, dai, me lo regolo io, tanto lo so come si regola. Basta prendere un altro apparecchio e ascoltare. Ascolta Gianni, invece prendi un altro apparecchio, prendi un elicottero o un aeroplano. Ehi, vabbè. Io non voglio fare polemiche, però il mio parere lo sapete sempre. Cacchio, la bellezza della radio è sentirsi bene, chiaro e pulito. Che gusto c'ha una persona a deteriorarsi la modulazione? Questo io non mi può entrare in testa, forse è più forte di me. Se uno esce bene, pulito, la voce io l'ascolto come la sento dal vero. Che motivo c'è di metterti questo cavolo di eco o di riverbero per peggiorarti la cosa? È come che c'hai un impianto stereo a casa, i ceci mi metto un imbuto sopra gli altoparlanti, perché si sente più forte. Cacchio, io la vedo così la radio. No, l'eco ti dà una certa amplificazione, Rubè. Ma non stiamo parlando a lunghe distanze, tipo i camionisti che si muovono, ci sono le colline, le montagne, i ponti, i sottopassaggi, che ti serve un po' di eco per cercare di ripetere quello che hai detto e farti sentire anche quando c'è un abbassamento di segnale. Ma dentro città, cosa cavolo serve? Siamo tutti puliti, perfetti, con antenne fisse, in postazioni fisse. Scusa, io mi ricordo quasi fine anni 70 che c'era una persona, non dico il nome, metteva una registrazione di un prete e c'era l'eco, ma ci stava bene perché diceva: figliolo, dimmi i peccati che hai fatto, padre, non ho mai rubato. Sì, così ogni tanto per ridere, farsi due risate, per provare come esce, però a utilizzarlo per parlare in un QSO normale, a cosa sì? C'è la cosa, Emanuele, tu l'hai conosciuto, Ponzio Pilato, tu... Sentito, sì, quello Ponzio Pilato. Quello, l'hai vista la modulazione che avevi tu, quello non aveva bisogno di eco, sembrava un prete quando dice la messa, ci aveva una voce così calma, calda, proprio un coso, uno di quei predicatori che si chiamava, cioè sembrava. Ripeto, è libero ognuno di fare quello che vuole, può mettere anche video ripetizioni che durano tre quarti d'ora, non me ne ha fatti nulla, però io stando, mio padre, stiamo parlando di una conversazione tranquilla, serena, chiara, non è che ogni volta cosa ha detto, aspetta, non ho capito, qua, là, cata, ma troppe volte succedeva in un questo normale. Scusa un attimo, c'è chi cerca di sovramodulare, a Roberto non c'è riuscito, si sentiva sotto, ma se Roberto sta modulando, perché continuate a dire attenzione, prego, ecco, quando c'è il bianco, avanti il prego. Allora ti metto in pizzo. Sì, ma sottofondo, proprio pio pio. Ma a Roberto non lo senti? No, non l'ho sentito. Alla faccia, dov'è? E io sono, come dice qualcuno, pio pio. Da oggi modulo con lei. Ma che è, Tino? Sì, da oggi modulo con lei. Che feo, ma scusa, Tino, tu sei? Ho detto da oggi modulo con lei, qua se lo metto. E comincia a leccare, dai. Fai la brava, non ho capito cosa dici. Ma ho capito, Settino, non ho capito. Sembra lui, però non sono sicuro. Oh, Tino! Mica ti mosco le dita, mica ti schiaccio le unghie, me. Ma che tu l'eco c'hai? Ogni tanto, quando voglio fare balduria, c'ho la previsione accesa. Comunque c'è un bel tratto. No, non mi piace l'eco, la verità, ce l'ho anch'io, non lo metto. Tempo fa c'era, sì, quello, mi sembra che era, vabbè, non voglio dire nome perché non mi sta bene. Tanti soldi per fa, sentiva quello che dice padre, non l'ho mai rubato, eccetera, però, ma che peccati gravi che hai fatto. Era bestiale, lo mettevo la domenica mattina presto, ma se quanta gente ascoltava, era troppo bello, guarda. Però poi finirà lì, boh, basta. Però giustamente come c'è Roberto, l'eco è un qualsiasi, si sente bene tra uno e l'altro. Oh vabbè, oh, ognuno è padrone di fare quello che vuole. A me giustamente, sia, non lo sento, cioè, lo sento ma non ci capisco nulla, dico, o ripeti oppure... Vabbè, qua lo dico e qua lo nego. Comunque, a chi piace uscire con il microfono amplificato, a chi piace uscire con l'eco, non è che uno deve fare... dire la sua, se a lui piace fare così, che faccia così. La radio è bella anche per quello, perché c'è quello che vuole essere troppo amplificato, c'è quello che vuole essere col microfono normale, c'è quello che vuole essere con l'eco. Alla gente non deve fregare proprio niente, perlomeno io la penso così, a me non mi interessa se uno esce con l'eco o meno, rispetto alle cose degli altri, a me piace spingere un pochino di più, ma poi di quello che dicono gli altri poco me ne fotte. Questo è poco ma sicuro. Vabbè, sono entrato a salutarvi. Ciao, divertitevela. Oddio, allora, per me uno può mettere l'eco che vuole, però se tu mi ripeti due o tre volte la parola io non ci capisco nulla, dico punto di l'eco e ti posso rispondere, se no parla con un altro. Uno può fare quello che vuole, giustamente, non devo dire io, toglielo un metro quello che l'altro, io non lo capisco e non lo rispondo. Chiuso il discorso. Tony, se non lo capisci sono problemi tuoi, se a lui gli piace uscire con l'eco o a chi vuole uscire con l'eco le piace uscire con l'eco, se tu non lo capisci non è colpa mia, sua né mia, quello è poco ma sicuro. No, non è problemi, io problemi non ne ho e non mi ne appunti nulla, se non ti sento a ciò che dici, manco ti rispondo, quindi ti porto al punto se mi vuoi che ti capisco che togli l'eco, perché dico non riesco a capirti, te lo dico una o due volte, poi non ti dico per niente, fai quello che vuoi, non sono io pregato di togliere l'eco, assolutamente, sei padronissimo e fare quello che vuoi, però io non ti rispondo perché non riesco a capire ciò che dici, tutto qua. Comunque non ne facciamo una polemica, a uno può utilizzare quello che vuole, problemi non ce ne sono. Non ci sono problemi. No, vabbè, era per puntualizzare un pochino, perché io conosco qualche uno senza fare nomi che quando parla anche col microfono normale o amplificato non si capisce niente di ciò che dice, perché tra virgolette ha una timbrica, una modulazione non comprensibile a mio orecchio. Attenzione, io parlo di me e metto e sottolineo di me, non degli altri, e molte volte faccio fatica a capirlo, ma perché è la sua modulazione, per carità, perché è una sua maniera di parlare, ma non è che devo dire ehi, cambiati il microfono o mettiti quello normale o quello amplificato, non me la fotti nulla. Se lo capisca bene, beh, sono paziente, vuol dire che ciao, vabbè, lo saluto e ciccia. Vabbè, divertite, vabbè, vado a fare cosa qua a casa, poi vado a preparare un qualcosina al bimbo per dare a nanna anche io. Ciao, riprendi Gianni. Ciao Tino, ciao, buona serata, dai. Un bacio al bambino, ciao ciao. Sveglia, grazie, già, ciao ciao. Ciao Tino, non l'ho mai detto io di dove scambiate il microfono, non l'ho nessuno. Riccardino sei in parcheggio, poi fai girare Roberto. Ehi, ciao Tino, ben ascoltato, va bene, avanti Roberto. Ehi, ciao Tino, no, non è una polemica, ho detto ognuno è libero di fare quello che vuole, se a me mi disturba non ascolto e mi sposto e spengo tutto, non posso dire a un altro cambia microfono, però ho fatto un'osservazione, se vogliamo farci sentire bene, preferisco io ascoltare uno che non devo dire cosa hai detto, ma cos'è, non capisco, chi sei qua, se vogliamo fare un questo, ma se poi vogliamo fare altre cose ognuno è libero di fare quello che vuole, però se stiamo parlando tranquillamente io dico è sempre meglio utilizzare il sistema migliore, la radio giusta, pulita senza effetti, poi se uno libera di ecco se lo mette, pazienza, però se ho difficoltà devo dire oh, mica non ti ascolta, non si comprende nulla, poi se non mi piace continuare la conversazione perché mi disturba e non riesco a capire, dico beh ciao, arrivederci. Una cosa Roba, se ecco lo usi a manettone, una cosa se lo metti leggero come lo metto io, capito? Tutti gli altri mi hanno sempre detto che è leggero, che non disturba, che questo e quell'altro, state facendo la polemica di questo ecco, vabbè. Resto in corrix così non disturbo, dai. Scusa Gianni, nessuno sta facendo una polemica. Tu puoi parlare con l'eco, muda con l'eco, se io riesco a capire quello che dici tu io ti rispondo, se non ti rispondo vuol dire che non ti ho capito, punto e basta, non è che io togli l'eco, mettilo. Oh, scusate che non ho salutato né a Roberto né a Riccardino, ero così all'ascolto e sono entrato così di botto. Va bene, ciao. Ciao Tino, già non è nessuna polemica, sono soltanto considerazioni. La polemica quando uno può fare zizzania, cosa del genere. Qua si è parlato soltanto che l'ideale è avere tutti una modulazione un po' più bassa, senza... poi se a uno non anda a me e lo disturba, spengo il baracchino emendandomi, non è che mi dava a mangiare a me il baracchino già, capisci a me. Ciao Tino di nuovo, ricordati ci hai offeso Gianni? Non so, io se si è offeso, buon per lui, cosa vuoi ti dica? Io non ho offeso a nessuno, ho fatto solo la considerazione, poi se lui continua a usare l'eco, gli piace usarlo, lo usi, non mi interessa, non ho nessun problema io. Io ho parlato solo di qualità di radio, l'ideale è avere sempre una cosa ottima, se poi uno vuole peggiorarla e gli piace così, buon per lui, io la vedo così, poi ci arrangiamo in altri modi, se a me mi disturba, non capisco niente, lo dico due volte, tre volte, la terza volta dico, non ti capisco e cambio canale. Vai Riccardo, continuate a fare il questo. Questa non è ora di offendersi. Io non mi sono offeso per niente, solo che non mi dà un po' di fastidio che le volte stiano a puntualizzare certe cose, ognuno è come, c'è quello brutto, c'è quello bello, c'è quello ricco, c'è quello povero, c'è quello che usa l'eco e c'è quello che non lo usa. Però io rispetto tutti, dove finisce la mia di libertà c'è quella degli altri, per cui io la vedo così. Aspetta, voglio chiarire una cosa Gianni, non stiamo offendendo nessuno, non stiamo ripigliando nessuno, il fatto è questo, stiamo parlando fra noi, aspetta che passo anche qua, stiamo parlando fra noi, un questione normale giustamente, se io ti ho ripetuto una o due volte non ti ho capito già, perché con l'eco mi incidi talmente forte che non riesco a capirti. Perché voglio continuare con questo con te, scusa, non è che sono già politica di niente, ma non c'è bisogno che ti offendi perché nessuno ti ha offeso già, è che ci mancherebbe altro. Sai, te va a 60 anni e non comprendi la cosa, cioè non hai offeso già. Oh, io già la capisco, non sono offeso, però non voglio disturbare nessuno, il mio modo di uscire è questo. Se non mi va bene, non voglio disturbare, rimango in ascolto e ascolto a voi. Scusa, adesso sei uscito perfettamente bene, il mio modo è questo, ma questo così, senza eco o con l'eco, spiegati. Adesso l'ho tolto per non disturbare a voi. Non mi disturbi, non riesco a capirti, basta Gianni, io non ho mai detto mi stai disturbando, no, non l'ho mai detto, non lo dirò mai, perché a me mai nessuno mi disturba, se uno non lo capisco, dico che le donne non ti ho capito, boh basta, per risponderti attorno a ciò che hai detto tu, non per altro. Vabbè, state, stiamo a parlare fino a domani, io non mi sono mai permesso di dire a Roberto stai scendo troppo forte, stai scendo troppo con l'eco, se non stai scendo con l'eco, non mi interessa, ascolto tutti, ognuno esce al modo suo e basta, tutto lì, e sono tranquillo io e sono tranquilli gli altri, vabbè, comunque non c'è nessun problema, io sono qua, continuate il questo. Intervengo io un attimino, allora Gianni, non è detto che uno deve avere l'eco per uscire male, quante volte c'è qualcuno che parla troppo forte, attaccato al microfono, troppo amplificato e non si comprende nulla, dico abbassa, trova un altro microfono, ma poi se lui esce così, buon per lui, se gli piace uscire così, però se stiamo cercando di parlare uno con l'altro, dobbiamo fare in modo di capirci, poi se tu con l'eco vai, stai amplificando troppo e quello ti dice non ho capito, te lo dice due o tre volte, non è questione di disturbo, è questione che non si capisce, non c'entra niente avere l'eco. Non avere niente. E questo di essere comprensibili. Secondo me quando tu parli con una persona devi essere comprensibile, indipendentemente se c'è l'eco o non c'è l'eco, perché anche c'è gente senza l'eco e molte volte non si comprende nulla. Non facciamo nomi, però più o meno lo sappiamo. Il discorso, se stiamo parlando uno con l'altro, dobbiamo capirci, non è ogni volta cosa hai detto? Cosa hai detto? Non ho capito. Quello lo fa anche l'età, magari ci diventa vissuto, non c'è l'età. Ma ecco se mangio pulire la trombetta me la leggi. Ma è vero anche quello Micio. Domani dai medici ti faccio posare lì, ti faccio comprare anche lo scudo alla famiglia. Guarda che quello ce l'ho grande, me lo metti in testa, faccio capità ventosa. Hai detto bene, lo sai quando era lì, dove la tira a freddo. E non ci volevi niente Gianni, no, se mai di altro no. Te ne immagini? Andiamo a portare il cane a quell'ora a Turica, se no. Quello là io alle 8, sai cosa faccio? Pulisco le gabbie, porto giù il cane. Te cani ci sei ancora tu? alle 9 mi posso liberare, ma non mai alle 8, alle 8 è troppo tardi, troppo presto. E c'è di anteprima invece? Sì, alle 7:15. E poi lo sai cos'è? Mi ha telefonato mia figlia da Bologna, ma non è che c'è un trappano in chiuso. E io gli ho scritto, no, in chiuso non ne ho, c'ho il trappano io e basta. E adesso ho pensato che adesso ne prendo due, così ne prendo anche altri. Gianni, guarda che io problemi non ne ho, se voi io te la compro domani, quante ne vuoi? Due, tre, non c'è problema, due me ne devo prendere io, se ne vuoi due te ne compro quattro. Quanto costa? Mi sembra che era o 18 o 19 euro, una cosa del genere. Oh, Tony. Sì, dimmi. Ma tu avevi l'orario davanti a tu, Gianni? Sì. E lo devi ricomprare? La Vitatone, quello 20 volte. No, io devo prendere due di quelle molette a batterie. Monete ne ho quattro, ne ho le palle piene, robe, per carità. No, questi attrezzi no, niente. Mi piace quello abitatore perché ha 20 borse, capito? Sì, di quelli ne ho due, sempre presidiali, uno un po' più piccolo e uno grosso. E sono una bomba, sono eccellenti, non so quanti anni ce le abbiamo. E noi li usiamo uso gravoso oppure in officina. Li usiamo anche per fare buchi, come trappano d'emergenza, cose così. No, devo prendere due di molette, una a me e una a mio cugino, di quelle a batteria che sono lo stesso eccezionali. La nostra però si è rotta, però cacchio l'abbiamo strapazzata alla grande. Io ho comprato anche il cartuccio, ho comprato quella tipo che segreto alternativo orizzontale che è micidiale, bestiale, ho detto alcune radici, guarda, sono troppo soddisfatto. Pulito, hai messo nella valigetta, ho messo a posto. Avanti Riccardino. Eia, mi non rovinate il sonno a nessuno. Non roviniamo nessuno il sonno, prego fatti. Tony, ma quel segreto stai dicendo tu, è la batteria o elettrico quello che c'hai? Il cartuccio? Elettrico. Lo sai che l'hanno portato a batteria, 39 euro costa. Quella moneta che sto usando io, che devo prendere io, la stanno vendendo 39 euro, costava 79, e in offerta solo domani c'è. E batteria, ti dico il perché, è buono perché se io devo tagliare un tubo che porta l'acqua, anche se tagliando esce l'acqua non mi fa niente, sono la batteria, se è elettrico è pericoloso, tutto qua. Ma se sei in campagna non hai corrente elettrica, in una zona che devi fare un'emergenza, devi prendere la moletta, devo tagliare il lucchetto perché mi si è rotta una qualunque cosa, devo pure rubarne una moto. Hai visto adesso vanno a rubare le moto con questi seghetti a corso, no? Seghetti, molette a batteria, ho visto rubare un Ducati, spaventoso. Avanti Gianni, rubi o ru, domani ti mosci come dita amicia. C'è qualcuno che sta parlando sopra. Chi è che vuole entrare? Oh signori, io adesso vado a Nanna, saluto a Tonino, Gianni e Riccardino, eventuali amici che ci stanno ascoltando sotto, che magari non vogliono entrare. Dimentichiamoci delle polemiche perché da parte mia è soltanto una considerazione, polemiche lo sapete, non è nella mia natura fare, soprattutto qua in radio che non mi ha fatto nulla, che io parlo solo in radio per liberarmi dallo stesso quotidiano e boh, è tanto male che mi metto a fare polemiche con le persone, per cui Gianni capisci il mio discorso, ognuno è libero di fare quello vuole, siamo in democrazia, per cui prendiamola così. Vi saluto a tutti, cuore da parte mia, ciao Riccardo, ciao Tonino e ciao di nuovo Gianni, ciao ciao a tutti. Roberto, oh dimmi, ma te ne stanno via per questo coso di Gianni? Ma stai scherzando, ma cacchio, io ci avrò tanti difetti, ma mica sono permaloso o mi offendo per questo, ma stai scherzando, è tardi, ho visto l'orologio, sono le 11:06, dai, e a parte ho dormito anche poco ieri, io dormo poco la notte, per cui devo cercare di recuperare un po' di sonno arretrato, assolutamente, lungi da me, io l'ho detto sempre, sono di quelli che ho sempre detto, a me la radio è un divertimento, non deve essere un discorso di guerre o di attrive. Quando vedo che non mi piace il discorso, non è questo caso, non entro neanche. Molte volte ascolto, se ci sono argomenti che non mi interessano o che non voglio entrare per non disturbare, me ne rimango fuori. La radio per me è una valvola di sfogo, come ho detto prima, dello stesso quotidiano. E la vedo così la radio. E mai mi vedrà a me a fare a meguno la radio. Io se me la vado a fare mi azzuffo nella realtà, non in radio sicuramente. E tantomeno sono permaloso. Ci avrò difetti tanti, ma non sono permaloso. Ricordatevi di quella. Roberto. Riccardi. Dai, ma fanno perché sono offeso con Riccardino, l'ho rilanciato e non mi ha risposto. Avanti Riccardi. Tanto state tranquilli che domani ci riappacifichiamo, anche noi andiamo a fare tutto il briefing al Lido, ci troviamo tutti al Lido domani mattina. Io entro alle 9, domani sono con un primo entrare già vicino a casa. Dai, ciao, vi saluto a tutti di nuovo, dai che tardi. Ciao ciao. Ciao Robbe, ciao, buon corretti. No, io sono da Liotola. E poi ripeto, io ce l'ho giù, vado quello di giù perché mi viene più vicino. Praticamente dove c'è la rotatoria per Alghero. Oh Roberto, visto che sei il primo, prendimi il numero. Roberto da Tannanna. Gianni, Lupio, Ru. Stavo mandando un messaggio a mia figlia per se vuole il trappano. Dai, così te lo prendo anche a te direttamente, così poi ti faccio girare il cane, non c'è problema, capito? Io ne posso comprare anche 50 domande di quelli che la fanno, problemi non ne ho. Bisogna vedere se in offerta te li danno. E se ci sono pure. No, mi bastano due per me, capito? Poi se ci sono due a te ne prendo quattro, non c'è problema. Ciao, ciao a tutti, ciao Roberto, ciao Gianni e ciao Tonino. Vi lascio che devo andare a prendere la carriola. La carriola vai a prendere. Ok, dai, Riccardi. Ciao, buon corretti, buon trasloco di materiale. Stammi bene, ci sentiamo. È tutta un'altra cosa avere il baracchino dentro in camera, dai. Ok. Grazie per l'intrattenimento, Adesso mi sistemo l'antenna, non c'è più problema di trasloco, posso buttare via la carriola. Meno male, dai, se no vengo lì ti buco la ruota. Mia cinco cinco. Mia cingomino mi. Perché c'è così basso Manuele? L'antenna. Se non è antenna, ma è più forte. Ma mi va bene. Ha girato la direttiva verso di te allora. Parla, no, lei dice la radio è bella, questa radio che cosa è, che microfono stai usando? E questo va bene, vedi, così stasera non mi piaceva, lo sai? No, sembrava una voce cicciofoni, capi, come se stavi parlando dentro un bicchiere, lui ci sembra. Ma è la GBC, costano una cazzata per i microfoni della CTE oppure sono mancati di sono semplici però vanno bene. Comunque arrivavi 9:10 spaccato, adesso in Santiago 9, forse per quel po' di vento che c'è stato ti ha spostato la direttiva. Ah, girato il rompo. Ma noi 5 no, piano piano forte forte metti la direttiva, vogliamo sentire bene, eh? Io domani mi devo scendere l'altra antenna che c'ho e devo allungare il capo. Ho già fatto il PL, sono a posto. Quella piccolina per ascolto UHF. Siccome il capo è corto. Niente, ho trovato il capo più lungo, se per 10:58 e li metto con lui. Però l'attacco che andava dietro era tagliato un pezzo, se no 68 centimetri. L'ho messo per il barilotto e 2 PL. Probabilmente si trova a misurato col testo. E basta mettere un pezzo di filo di trecco, li puoi fare massa e lo metti a terra. Ma da cui piace di corsa? No, un pezzo di cavetto, dai. Ora attacca un altro tubo di antenna, è più massa di quella voi. Ah, credevo che lo volevi fare attaccare dal corrente. No, no, intendevo bene. Se devo specificare, cavo unipolare da 1,5 va anche bene. È una ringhiera, un altro palo di antenna di TV, non lo so. Io non ho visto neanche questa antenna tua, come cavolo è fatta, boh. Guarda lei mimetizzata. E beh già, ti hai dato risposta a tua figlia? No. No, invece le volte già ho letto, o che sono usciti, lo Samuele, o non ha scritto nulla ancora, vediamo un po' se mi risponde, se no, vabbè non ti preoccupare, se ritrovo ritrovo, se lo ritrovo già viene luce, no, non ha più. Lo sto prendendo io magari però lo uso per me, perché io non è che faccia serio a lui. Non mi piace molto lavorare in casa, ma c'ho da pitturare non mi decido. Beh, hai detto una cosa sacrosanta, però per me è tutto almeno il contrario. Giustamente anch'io se dentro casa non è che faccio molti lavori perché sporco troppo, ma ho un cortile, cioè qua e posso fare tutto quello che voglio, capito? Ho la pulivapor, non mi manca niente, e automaticamente io mi viene bene a lavorare qua sempre il sole, capito? E quindi faccio il tempo, anzi a me piace molto. Sì, vabbè, ma c'è la passione. No, ma io già me li faccio i miei lavori, quando non fate me li faccio, ma in casa sono un po' restio a farli, faccio tu a mani, quando mi succede che ci sono per qualcosa. Io riesco a fare quando faccio mobiletti qualche modifica, prima però me lo studio su carta, faccio il disegnino, così va bene, così con mi prendo le misure dove lo devo mettere e poi vado a fare il legname e poi non lavoro qua in casa, cioè in casa, in cortina. Avevo comprato la troncatrice, avevo comprato la circolare da banco, insomma, attrezzatura neanche troppo. No, ma ne ho anche abitatori, però quello mi piace a me. Infatti me lo compro due per il sicuro. Manuel, qua sono andato con Stefano, ci abbiamo mangiato qualcosa, mi ha portato a casa sua, su mia casa, un mio palazzo. Mi sono affacciato, mi sono assucchiato, dove aglio. E mi ha fatto vedere la sua stazione, cavolo. Mastrodontica, c'ha apparati spaventosi, troppo belli, guarda. E anche più di 1000 euro, fregatene.